Prima lettera di Giovanni. Colui che era fin dal principio, colui che noi abbiamo sentito, colui che abbiamo veduto con i nostri occhi, colui che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, cioè il Verbo della vita, poiché la vita si è manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne diamo testimonianza e vi annunziamo questa vita eterna che era presso il Padre e che si è manifestata a noi. Colui che abbiamo veduto e sentito lo annunziamo a voi, affinché anche voi abbiate comunione con noi. La nostra comunione è con il Padre e con suo Figlio Gesù Cristo. E noi scriviamo queste cose affinché la nostra gioia sia piena. Questo è il messaggio che abbiamo sentito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi sono affatto tenebre. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non operiamo la verità. Se invece camminiamo nella luce, come Lui è nella luce, noi siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di non aver peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto e così rimette i nostri peccati e ci purifica da ogni ingiustizia. Se noi diciamo di non aver commesso peccato, lo facciamo un mentitore e la sua parola non è in noi. Figli miei, io vi scrivo queste cose affinché voi non pecchiate. Ma se qualcuno pecca, noi abbiamo come intercessore presso il Padre, Gesù Cristo, che è giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo noi sappiamo di conoscerlo, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco, ma non osserva i suoi comandamenti, è un mentitore e la verità non è in lui. Invece, se osserva la sua parola, veramente l'amore di Dio in lui è perfetto. Da ciò noi conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in lui deve comportarsi come egli si è comportato. Carissimi, scrivendo, non vi propongo un comandamento nuovo, ma un comandamento antico che voi avevate fin dal principio. Il comandamento antico è la parola che voi avete ascoltata. Tuttavia, è anche un comandamento nuovo che vi propongo scrivendovi. Ciò è vero in lui e in voi, poiché le tenebre ormai passano e già risplende la vera luce. Chi afferma di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e in lui non vi è pericolo di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Scrivo a voi, o figli, che vi sono rimessi i peccati nel suo nome. Scrivo a voi, o padri, che avete conosciuto colui che è dal principio. Scrivo a voi, o giovani, che avete vinto il maligno. Scrivo a voi, o figlioli, che avete conosciuto il Padre. Scrivo a voi, o padri, che avete conosciuto colui che è dal principio. Scrivo a voi, o giovani, che siete forti, e la parola di Dio dimora in voi, ed avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né ciò che viene nel mondo. Se uno ama il mondo, in lui non c'è l'amore del Padre. Poiché tutto ciò che viene nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, lo sfarzo della ricchezza, non è dal Padre, ma dal mondo. Il mondo passa, e così la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Figlioli, è l'ultima ora. Avete udito che l'anticristo deve venire, ed ora molti anticristi sono già sopraggiunti. Da ciò sappiamo che è l'ultima ora. Essi sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se infatti fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma doveva essere manifestato che tutti essi non sono dei nostri. ma voi avete l'unzione che viene dal Santo e avete tutti la scienza. Non vi scrivo perché non conoscete la verità, ma perché avete conoscenza di essa e perché nessuna menzogna è dalla verità. E chi è il mentitore, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Questi è l'Anticristo, colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha il Padre. Chi confessa il Figlio ha il Padre. Quanto a voi, rimanga in voi ciò che avete udito fin dal principio. Se in voi rimane quello che avete udito fin dal principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. È questa la promessa che Egli ha fatto a noi, la vita eterna. Vi scrivo queste cose riguardo a coloro che tentano di ingannarvi. Quanto a voi, l'unzione che da Lui avete ricevuto rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Anzi, la sua unzione vi istruisce su tutto ed essa è vera e non è menzogna. Perciò, siccome Egli vi ha istruito, rimanete in Lui. Ed ora, figli, rimanete in Lui affinché noi, quando Egli si manifesterà, abbiamo piena sicurezza e alla sua venuta non siamo da Lui coperti di vergogna. Se voi conoscete che Egli è giusto, sapete anche che chi opera la giustizia è da Lui generato. Guardate quale grande amore ha dato a noi il Padre. Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo. Per questo il mondo non ci conosce, poiché esso non ha conosciuto Lui. Carissimi, fin da ora siamo figli di Dio e non si è ancora manifestato quel che saremo. Sappiamo che quando ciò si sarà manifestato saremo simili a Lui, poiché lo vedremo come Egli è. Chiunque che ha questa speranza in Lui diventa puro come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità, poiché il peccato è l'iniquità. Voi sapete che Egli si è manifestato per togliere i peccati, ed in Lui non vi è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. Chiunque pecca non lo ha veduto, né lo ha conosciuto. Figli, nessuno vi inganni. Chi compie la giustizia è giusto. Chi commette il peccato è dal diavolo, poiché il diavolo fin dal principio perpetra il peccato. Per questo il Figlio di Dio si è manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è generato da Dio non commette peccato, poiché il seme di Dio rimane in lui. Egli non può peccare, poiché è generato da Dio. In questo si rendono manifesti i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non compie la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama il proprio fratello, poiché questo è l'annunzio che avete ascoltato fin dal principio. Dobbiamo amarci gli uni gli altri, non come Caino, il quale era dal maligno ed ha ucciso suo fratello. E per quale motivo lo ha ucciso? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che chi è omicida non ha la vita eterna che rimane in lui. Da ciò abbiamo noi conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Se uno possiede le ricchezze del mondo e vedendo il proprio fratello che si trova nel bisogno gli chiude il cuore, come l'amore di Dio può essere in lui? Figli, non amiamo con le parole e con la lingua, ma con le opere e nella verità. Da ciò noi conosceremo che siamo dalla verità, e dinanzi a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa il cuore nostro possa rimproverarci, poiché Dio è più grande del nostro cuore e conosce tutto. Carissimi, se il cuore non ci rimprovera, abbiamo piena sicurezza presso Dio, e qualunque cosa gli chiediamo, la riceviamo da Lui, poiché noi osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che è gradito davanti a Lui. Questo è il Suo comandamento. Dobbiamo credere nel nome del Suo Figlio Gesù Cristo e dobbiamo amarci gli uni e gli altri secondo il comandamento che Egli ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo noi conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che egli ci ha dato. Carissimi, non vogliate credere a ogni spirito, ma esaminate gli spiriti per conoscere se sono da Dio, poiché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. Da questo voi conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. Ma questo è lo spirito dell'Anticristo, del quale avete sentito che deve venire, anzi, è già nel mondo. Voi, figli, siete da Dio e li avete vinti, poiché chi è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono dal mondo, perciò parlano del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ascolta noi. Da ciò conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chi ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, poiché Dio è amore. L'amore di Dio si è manifestato tra noi in questo: Dio ha inviato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo si è manifestato l'amore. Non noi abbiamo amato Dio, ma Egli ha amato noi ed ha inviato il Figlio Suo come propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se così Dio ha amato noi, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il Suo amore in noi è perfetto. Da questo conosciamo che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato del Suo Spirito. E noi abbiamo visto e attestiamo che il Padre ha inviato il Figlio come Salvatore del mondo. Chi confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio in Lui rimane ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto ed abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio, e Dio rimane in Lui. In questo, l'amore che è in noi è perfetto. Noi abbiamo piena sicurezza per il giorno del giudizio, poiché come Egli è, siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non vi è timore, anzi, il perfetto amore scaccia il timore, perché il timore suppone il castigo, e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi dobbiamo amare, perché Lui per primo ci ha amati. Se uno dice «Io amo Dio» e poi odia il proprio fratello, è mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E noi abbiamo da Lui questo comandamento: chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chi ama colui che ha generato, ama anche chi è stato generato da Lui. Da questo noi conosciamo che amiamo i figli di Dio, se amiamo Dio e compiamo i Suoi comandamenti. Questo è l'amore di Dio: osservare i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti non sono pesanti, poiché chi è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ma chi è colui che vince il mondo, se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, Gesù Cristo, non soltanto con l'acqua, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne dà testimonianza, poiché lo Spirito è la verità. Poiché sono tre quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. Se noi riceviamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è più grande. Questa infatti è la testimonianza di Dio: Egli ha reso testimonianza a suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede in Dio fa di lui un mentitore, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato al figlio suo. E questa è la testimonianza. Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che voi avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Questa è la sicurezza che noi abbiamo in Lui. Se noi chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se noi sappiamo che Egli ci ascolta qualora gli chiediamo qualcosa, sappiamo già di avere da Lui tutto ciò che gli abbiamo chiesto. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita, come a coloro che commettono un peccato che non conduce alla morte. Ma vi sono peccati che conducono alla morte. Per questi dico di non pregare. Ogni iniquità è peccato, ma vi è peccato che non conduce alla morte. Noi sappiamo che chiunque è generato da Dio non pecca, ma il generato da Dio lo custodisce così che il maligno non lo tocca. Sappiamo che noi siamo da Dio, mentre il mondo giace tutto in potere del maligno. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel Figlio suo Gesù Cristo. Questi è il vero Dio e la vita eterna. Figli, guardatevi dagli idoli.